nemici della nostra salute, sino a provocare infezione della pelle, dei genitali e delle irritazioni molto fastidiose. Quindi assolutamente no al costume bagnato, perché con acqua e calore questo si trasforma in una culla per i germi, ma devo dire che non dobbiamo stare attenti solo al costume bagnato, ma anche a non sederci direttamente sulla sabbia, perché dobbiamo evitare la trasmissione e la crescita di germi nocivi che possono essere proprio nella sabbia e possono trasmetterci delle infezioni. È bene anche evitare di sedersi sui bordi delle piscine o sulle panche degli spogliatoi e mai passarsi gli asciugamani, e magari usare dei prodotti per la pelle a pH acido. Vorrei dire che una particolare attenzione in questo periodo estivo deve essere prestata dalle donne al periodo mestruale. Ottimo l'utilizzo dell'assorbente interno, che ci fa stare in acqua tranquillamente, che è sicuramente più confortevole, ma deve essere cambiato spesso, mai tenerlo oltre 2-4 ore. Ultimo consiglio: usare la biancheria di cotone, preferibilmente al 100%, in tessuto naturale di colore bianco, perché questo garantisce freschezza e protezione anche dall'eccessivo caldo. Caldo e umidità uguale molte volte anche ad infezione. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.